30%, eccolo qua, eccolo qui, sì, miglioramento economico del 24%, hanno risparmiato sulle manutenzioni, cioè questi lo dicono anche, si risparmia sulle manutenzioni. E allora personalmente già 3 anni fa feci una ricerca capillare e ho ancora i grafici che ho fatto, dove mediamente ogni deposito, sono circa 10 a Roma, ogni deposito ha una media mensile di 800-700 guasti, con punte di 1200-1300. Se consideriamo che sono passati almeno 3 anni e gli autobus sono gli stessi, il contratto di servizio che il comune paga ad ATAC parla esplicitamente che gli autobus devono avere una vita massima di 7 anni. Qui siamo con vetture veramente, che i serpentoni, quelli famosi, i jumbo bus, quelli verdi, con gli altri che sono in giro, sono del 98-99 e sono ancora in giro, sono le stesse identiche vetture, con notizie di cronaca uscite nell'inverno scorso, nello scandalo Parentopoli, è stato scoperto che gli appalti per le manutenzioni costavano 3 volte tanto, dati in esterno non si sa chi e non si sa con quale gara, i pezzi di ricambio, quelli che arrivavano restavano fermi quasi fino alla scadenza della garanzia nei magazzini centrali e non venivano consegnati. Cioè, e questo la gente, i cittadini non sanno, e questo andrà ulteriormente a peggiorare. Secondo me questa è tutta una manovra per preparare il terreno alla privatizzazione, non ultimo il mettere in cattiva luce, come fu fatto allora, dove sembrava che in Alitalia fossero tutti piloti da 10-12 mila euro al mese, e invece lì c'erano persone, lavoratori da 1800 euro, 700 euro, 1200 euro, lavoratori normalissimi. Lo stesso con questa gogna mediatica che è partita da qualche anno fa, se ricordate bene, c'è stato un periodo in cui tutti gli autisti erano alcolizzati, un periodo in cui erano tutti drogati, un periodo in cui addirittura sono diventati anche stupratori, e adesso sono tutti degli incoscienti che telefonano durante la guida. Siamo arrivati al punto che questo è un paese che dice che non ti vuole fare un decreto legge denominato bavaglio sulle informazioni e sulle intercettazioni, e poi guardo di sfuggita una trasmissione in televisione venerdì scorso su Rai 1, dove c'è chi addirittura propone di controllare i tabulati telefonici dell'autista se ha ricevuto o ha mandato telefonate o messaggi durante il turno di lavoro. Cioè qui la sentiamo proprio l'assurdo. Quindi questa è tutta una gogna mediatica, affinché nella loro speranza è quella che il cittadino si convinca che pubblico è brutto e privato sia bello, certo, ma la conclusione è quella che già soltanto ieri, uno la mattina, uno la sera, ci sono state ulteriori aggressioni a 2 autisti, soltanto perché hanno aspettati in fermata perché volevano salire fuori fermata, quindi seguendo la regola, il regolamento, seguendo la lettera e il regolamento. Soltanto ieri 2 aggressioni, ma se andiamo a ritroso ormai è un fatto quotidiano, ogni volta purtroppo nella massa c'è chi si sente in diritto di agire in questa maniera, in quanto l'autista ormai è la causa di tutti i mali dell'ATAC, insomma. Quindi tutte queste cose, tutto questo mirare, compresa la gogna mediatica, secondo me è una preparazione al terreno al privato che dovrà subentrare. Sappiamo benissimo ormai di dominio pubblico che ci sono editori di famosi quotidiani che stranamente sono molto impegnati nel pubblicare sui siti o sui giornali i video fatti dalle persone con i cellulari, e veramente in questo caso non so come riusciranno a mantenerla, perché io parlo con i colleghi, li ascolto, li sento, li leggo nei vari gruppi anche su Facebook, è diventato ormai una cosa quasi irrinunciabile, e veramente la rabbia sta montando in una maniera spaventosa, c'è il rischio che si vada ad una guerra fra poveri, lavoratore che poi non fa più quello che ha sempre fatto durante il lavoro, cioè aiutare chi deve andare da un punto all'altro, chi lo deve avvisare di scendere a un certo punto, aiutare la signora che deve chiudere il passeggino, lo fai salire, riportare, come già accaduto, bambini che si perdono o anziani che smarriti per la città rimangono lì, insomma ce ne stanno delle cose, e c'è qualcuno che comincia a dire io non farò più questo, e non è possibile, qui veramente si rischia la guerra fra poveri, e il tutto per favorire non si sa chi, non si sa l'amico di chi, che vorrà prendere un settore dove, parliamoci chiaro, ATAC va male, ma è un problema di gestione, perché un'altra domanda che dovrebbero farsi i cittadini è com'è possibile andare falliti avendo il monopolio. Cioè, io penso sia un controsenso, se voi foste l'unica radio di Roma e la gente fosse, fra virgolette, obbligata ad ascoltare la radio, come si potrebbe andare falliti? Credo, faccio un esempio, perché poi certo. Voi senza editori, senza niente, siete una radio totalmente diversa e fortunatamente esistono in realtà come la vostra, insomma. No, hai fatto bene però, Walter, a ricondurre insomma tutto questo piano, che è anche ideologico, insomma, che è dato in pasto ai telecittadini utenti e mediaticamente attenti, insomma, riconducendolo appunto tutto al tentativo di privatizzazione, proprio perché, come hai detto, si tratta di sollecitare, no, quel tasto per cui poi il pubblico deve essere necessariamente bollato, insomma, come il settore che non va bene, all'interno del quale poi ci sono chissà quali nicchie, insomma, di protezione, eccetera eccetera. È importante, insomma, noi stiamo parlando di un servizio pubblico, quello della mobilità, che dovrebbe essere tra quelli su cui ci dovrebbe essere maggiore attenzione in una città come Roma, data la sua caoticità, insomma, e la sua anche estensione, insomma. Questo processo, tra l'altro, di privatizzazione di cui stiamo parlando, è facile individuarlo anche seguendo diciamo altri passaggi, come ad esempio la svendita del patrimonio immobiliare di ATAC, no? Cioè, sappiamo, insomma, che la Commissione Bilancio a maggio scorso approvò questa misura, la delibera 30 e 35, esatto, di svendere gli edifici, no? Sì, noi come USB, oltre all'ottimo risultato di lunedì scorso dello sciopero nazionale, in cui abbiamo dato, soprattutto i lavoratori hanno dato dimostrazione, sono molto sensibili a queste problematiche, e come USB, dicevo, il nostro slogan era uniamo le lotte, e facciamo parte del movimento Roma Bene Comune, che appunto è un movimento che raccoglie altri coordinamenti di cittadini che sono proprio contro questo. C'è stata l'occupazione del deposito San Paolo proprio per evitare la svendita, è stato occupato tempo prima simbolicamente il deposito di Piazza Ragusa, ormai chiuso da anni, dove abbiamo proposto sia come sindacato all'azienda che come cittadini al comune, che essendo un deposito strategico a pochi minuti dal centro potrebbe essere un polo di eccellenza per l'elettrico, che non inquina, che serve il centro, potrebbe essere costruito con finanziamenti europei, in quanto è un edificio enorme e il tetto potrebbe essere fatto con dei pannelli solari, quindi autoprodotto, quindi una mano all'ambiente, alla qualità della vita della città, all'aria che respiriamo. Quella piazza, parlano tanto di sicurezza, ma già un deposito in una piazza dove praticamente il lavoro e il personale è presente praticamente 24 ore su 24, è già di per sé un controllo, non c'è bisogno sempre e comunque per forza della guardia, della polizia o del militare, cioè il controllo lo fanno i cittadini stessi, che potrebbero uscire con serenità perché la piazza è frequentata, è tranquilla. Probabilmente qualcuno vuole che i cittadini stiano a casa guardando la televisione e inculcargli le loro idee. Quindi noi tutte queste proposte le abbiamo fatte, ripeto, col Movimento Roma Bene Comune abbiamo fatto anche uno sciopero urbano, metropolitano, l'abbiamo chiamato, perché riguardava il pubblico e il privato di Roma contro gli stati generali di Alemanno. Insomma, ci sono molti movimenti proprio che vanno verso questa direzione per evitare la svendita di edifici come, ecco, anche il deposito Vex Vittoria a Piazza Bainzizza, cioè a due passi da San Pietro. E un'altra domanda che ho posto sia all'azienda che ad una riunione al comune la settimana scorsa, se non erro, è stata: ma se le banche adesso sono disposte a dare dei prestiti per mantenere in piedi l'ATAC, allora le cose sono due: o c'è la certezza che il servizio venga dato ancora in affidamento all'ATAC per ulteriori svariati anni, cosa che nella manovra non è scritto così, addirittura c'è un incentivo per le amministrazioni comunali che dismettono le municipalizzate, quindi già un po' strano. E quindi devo pensare che le banche prestano i soldi adesso, l'ATAC, il comune probabilmente dovrà mettere a gara il servizio, l'ATAC non vincerà il servizio perché è in crisi e non potrà garantire determinate cose, verrà privatizzata e nel fallimento, fra virgolette, controllato di ATAC attraverso le banche, forse i soliti noti entreranno in possesso con 2 lire di depositi, quelli che elencavamo adesso, Piazza Bensizza al Tuscolano, il deposito del Vittoria, cioè Piazza Ragusa al Tuscolano, Piazza Bensizza praticamente nel quartiere Prati a 2 passi da San Pietro, il deposito di San Paolo a 2 passi dalla metro San Paolo, e più i vari edifici sparsi per gli amministratori, per gli amministrativi dell'ATAC, sparsi per la città, diventa un, diciamo così, un pacchetto regalo molto appetibile. Quindi noi per tutto questo cerchiamo di coinvolgere i cittadini soprattutto, perché i lavoratori noi già glielo spieghiamo, e spesso io sottolineo il fatto che noi pagheremmo 2 volte questa cosa in quanto lavoratori, ma siamo anche cittadini, che ci ritroveremmo comunque con un servizio peggiorato. Bisogna anche dire che bisogna anche dare qualche indicazione a questo punto, andando a chiudere, Walter, sì, su come magari mettere invece in scena azioni e movimenti significativi, insomma, che sappiano andare in controtendenza a tutto questo processo, perché noi adesso lo stiamo descrivendo, ma non dimentichiamoci che attraverso l'unità, insomma, di settori sociali è possibile frenarlo questo tipo di processo. È qui, insomma, che dovremmo un po' raccogliere la sfida e e cercare di essere all'altezza di questa sfida, a partire ad esempio anche dalla questione dell'aumento tariffario, no? Che ultimamente poi Alemanno ha cercato di smentire, ma che credo, insomma, rimane scritto nero su bianco, esatto, sul piano industriale, esatto. Quindi deduco rimane... che le banche debbano prestare dei soldi, quel piano industriale debba essere accettato così com'è. Quindi rimane, insomma, un balzello che poi difficilmente sarà digeribile dai più in questa città. Si sono già adoperati nel corso di quest'estate, ad esempio, per agire sotto questo piano. Ci sono stati, no, queste forme di incappucciamento delle macchine obliteratrici, sì, no? Quindi ecco, questo giusto per fare un esempio di possibilità di mettere insieme attraverso una dinamica, diciamo, di azione, di protesta, i cittadini e anche i lavoratori dei servizi. Ecco, ce ne sono, di opportunità ce ne sono, sta a noi un po' anche cercare di scatenare la fantasia, come ma dire, infatti, no? Noi viaggiamo, fra virgolette, parallelamente fra assemblee nei luoghi di lavoro per informare i lavoratori, e allo stesso tempo, come dicevo, attraverso il movimento Roma Bene Comune, i blocchi precari metropolitani, stiamo facendo una serie di assemblee pubbliche proprio per spiegare alla cittadinanza quello che accade e quello che probabilmente qualcuno non gli dice. Glielo diciamo noi dal di dentro, con testimonianze appunto dei lavoratori, in questo caso di ATAC, ma lo stesso discorso vale per AMA, e la tassa sull'immondizia la paghiamo tutti, vale per gli asili nido. Abbiamo fatto azioni, ci sono asili nido pubblici comunali chiusi che nel frattempo però il comune finanzia altri privati. È una serie di lotte, appunto, che l'obiettivo comune è quello di riunire tutto questo malcontento, tutto questo sociale che negli ultimi anni, come avete già spiegato anche molto meglio di me i miei predecessori negli interventi, cioè in questi ultimi anni è stato sempre un continuo calare, sempre meno finanziamenti, sempre meno aiuti, quindi la gente si deve auto-organizzare, ma al punto siamo arrivati a un punto tale che non è più possibile. E di conseguenza riunire tutto questo malcontento in un'unica lotta, ed ecco perché sia lo sciopero del 3 ottobre scorso che abbiamo fatto nel TPL a livello nazionale era semplicemente un passaggio, come tutto questo, per arrivare alla manifestazione del 15 ottobre, dove praticamente, come saprete, come sapranno gli ascoltatori, una manifestazione di livello europeo se non addirittura mondiale, proprio contro queste politiche neoliberiste europee, e che comunque io dico sempre ai colleghi, soprattutto, dobbiamo essere tutti islandesi, questo debito noi non l'abbiamo fatto e non lo dobbiamo assolutamente pagare, perché l'esempio più eclatante è stato quella famosa lettera dalla BCE che ci hanno inviato, e letta oggi è praticamente come si dice, una lista della spesa che è stata eseguita alla lettera, e questo non è possibile, assolutamente no. Quindi invito tutti gli ascoltatori, i lavoratori, i cittadini, chiunque, alla manifestazione del 15 ottobre, perché deve essere un movimento bello e plurale che dia l'indicazione che la gente non è un mercato, le persone di questi paesi non sono soldi, non sono, sono persone, e che hanno i loro diritti e li vogliono fino in fondo. Nei doveri li rispetteremo, ma i diritti non ci devono essere tolti. Benissimo Walter, noi ti ringraziamo. Tra l'altro hai anche fatto cenno alla situazione degli asili nido. Proviamo, ecco, nella successiva nel successivo collegamento anche ad affrontare questo tema. Grazie Walter e a presto. Grazie a voi e buona giornata. Ciao. Have you seen the papers apportion the blame? Who gets to say? Who gets the work and who gets to play? I was always told at school everybody should get the same. How many times have you been told if you don't ask, you don't get? How many lies have taken your money? Your mother said you shouldn't bet. Who has the fun? Is it always a man with a gun? Someone must have told him if you work too hard, you can sweat. There's always the sun. There's always the sun. Allora sono le 12:24, dunque stiamo facendo così questa sorta di carrellata nel mondo dei servizi e di quei pezzi di stato sociale presenti nel nostro paese, con una certa attenzione anche alla situazione romana. Sono i servizi, insomma, di cui le persone hanno bisogno giornalmente e che vengono sempre meno, compressi, insomma, da tutt'altre esigenze. Oggi quella principale è questa, appunto, del pareggio di bilancio, sull'altare della quale sono sacrificati e compressi tutti quanti i servizi. Questione che chiaramente dovremmo cercare di impedire, ma intanto cerchiamo di capirla e analizzarla meglio. Dunque, noi siamo con Antonietta, che è una lavoratrice degli asili nido. Ciao Antonietta. Ciao. Dunque, prima facevamo ad esempio un po', stavamo all'inizio proprio parlando di quanto, insomma, a livello di stato sociale ci sia, quanto incida la spesa rispetto al sostegno alle famiglie, e sappiamo ad esempio che contributi, agevolazioni per mandare i figli all'asilo nido, insomma, sono praticamente inesistenti. Ogni anno poi il comune pubblica le graduatorie per l'accesso all'asilo nido comunali, e di solito, insomma, manco la metà dei richiedenti è accontentata di questo fondamentale diritto, per cui, insomma, poi molti devono rivolgersi al nido privato. Innanzitutto, a quali costi si accede al nido pubblico, Antonietta, che sono comunque molto elevati? Sì, effettivamente sono molto elevati, anche se comunque negli anni il Comune ha sempre detto e garantito che non alzava i prezzi, di fatto poi comunque cioè, da un reddito proprio basso, che possono andare da 250 a un reddito, cioè proprio a delle cifre veramente astronomiche, insomma, sulle 400, e sinceramente i prezzi sono proprio altissimi, calcolando che in una struttura privata, insomma, più o meno la cifra è la medesima, quindi, cioè, di agevolazione ce n'è ben poca, anzi, più passa il tempo più è evidente, è veramente evidente questo. E dunque, insomma, a questo punto ci si deve anche interrogare se sia da considerarsi a tutti gli effetti un servizio pubblico, dati i costi, ma probabilmente il fatto che siano così alti è dipendente dal fatto che si cerca di incentivare proprio il nido privato. Le convenzioni... Sì, esattamente, infatti non a caso nel corso di questi anni, saranno all'incirca 4-5 anni che si tende poi a dare delle convenzioni agli asili privati, mettendo all'interno i coordinatori diciamo comunali, però che gestiscono, insomma, l'organizzazione e confrontando, diciamo, la qualità che definiscono loro degli standard di qualità. Comunque a livello territoriale e municipale ci sono degli asili privati convenzionati e autorizzati dal comune, dove vengono indirizzati poi i bambini che rimangono fuori dalle liste d'attesa del comune di Roma. Senti, Antonietta, com'è andata quest'anno? Cioè, malissimo, tipo... cioè siamo, guarda, te lo dico in maniera molto chiara, siamo in una fase veramente disastrosa, oserei dire scandalosa, calcolando che con l'attuale legge bandita da la Polverini, quella regionale, che ha reso ancora più disastroso quello che era all'interno degli asili già per quanto sia il personale e tutto quanto, e non avendo direttive dipartimentali, perché i i sindacati a livello dipartimentale hanno fatto bloccare tutta l'attuazione della legge, di fatto a livello municipale invece i municipi si trovano per forza di cosa costretti sia a rispettare questa nuova legge e sia a diciamo a ovviare a tutte queste emergenze, a tutti questi contratti che non sono stati dati neanche a livello dipartimentale. C'è il caos più totale, non c'è più continuità educativa, non si capisce più niente, siamo a un mese dall'inizio, diciamo, delle scuole, ma siamo veramente messi male. Senti, che tipo di copertura riesce a garantire quest'anno il servizio? Cioè, abbiamo fatto riferimento a una cifra, di solito nemmeno la metà dei richiedenti accontentata. Quest'anno è andata meglio o peggio? Guarda, quest'anno diciamo che forse saranno al di sotto della metà, perché ogni anno tendono sempre a diminuire più che aumentare, non so per quale motivo. Le richieste sono estremamente non risolute, calcolando poi che si è notato che in alcune zone ci sono dei posti in realtà liberi, vaganti, perché non si sa per quale motivo in delle zone dove probabilmente la popolazione è di meno, che hanno fatto delle scuole in più invece di farle nei posti dove in realtà servivano, e quindi c'è proprio una situazione veramente anomala. E calcola che in ogni municipio viaggiano per conto proprio, perché i direttori, essendo responsabili del municipio, municipio, quindi i mini sindaci, di conseguenza si cercano di adeguare alle esigenze della popolazione che gestiscono loro, e ti assicuro che se ne stanno inventando di tutte, cioè non hanno nessuna direttiva, non hanno proprio niente di niente che possano aiutarli a gestire il meglio la situazione, che è veramente drammatica. Ecco, quando parliamo insomma di tagli allo Stato sociale, parliamo appunto di servizi che vanno sempre in diminuzione e soprattutto che peggiorano di qualità, perché questa poi è la cosa essenziale. È emerso in modo lampante il fatto, ad esempio, che gli appalti per i nidi convenzionati sono stati effettuati tutti a ribasso, cioè si calcola che per misure standard, diciamo, si dovrebbero calcolare almeno 700 euro per bimbo, invece si sono dati servizi in appalto facendo riferimento a somme molto molto minori, 475 euro per bimbo. I nidi convenzionati però comunque questi appalti li tengono uguali a tutto danno poi del servizio stesso, perché poi la quantità, diciamo, di bimbi per singola educatrice sono crescono enormemente, alla fine i nidi diventano luoghi assistenziali piuttosto che educativi. Sì, ma infatti questa è l'anomalia della situazione, non solo poi a livello di asilo nido, ma anche nella scuola dell'infanzia, cioè proprio la qualità non esiste più, mentre di fatto tendono a farti fare dei corsi di formazione, a darti degli indirizzi su lavori a piccoli gruppi, cioè la realtà è un'altra, è amara e nera, cioè c'è assistenza e basta, si riesce a malapena a fare assistenza e vigilanza, la qualità sta veramente decadendo, ma non perché il personale non ha voglia o non ha le competenze giuste per dare la qualità al servizio, perché non c'è proprio la possibilità di farlo. Ecco, l'estrema conseguenza di tutto questo discorso poi qual è? Che si arriva al punto quasi di prevedere, insomma, un decadimento talmente forte, si parla addirittura, appunto, le proposte che vengono sventolate sono di asili low cost, no? Cioè, ecco, tu parlavi appunto di vigilanza, le proposte che si fanno strada sono quelle di domiciliarizzare il servizio dell'asilo nido, come se, insomma, le qualità sul lavoro per esercitare questo tipo di lavoro non dovrebbero esistere, basta insomma magari frequentare, non lo so, un corso e magari l'asilo nido te lo fai a casa. Ma si può insomma davvero pensare che... No, no, guarda, si può, arrivato a questo punto, cioè è palesemente chiaro proprio a livello nazionale che siamo arrivati a un punto in cui si può fare tutto, perché ce lo dimostrano tutti i giorni che fanno di tutto, ma di fatto concretamente chi è professionista, chi è del mestiere, chi lavora all'interno delle scuole sa perfettamente che questa cosa è veramente uno squallore, cioè io non te lo so neanche definire un termine giusto per definire, cioè sono tutte delle soluzioni talmente blande, è come prendere non so, un'aspirina per un'infezione, ecco, da qui ti ho fatto un paragone un po' ortodosso. Senti, in tutto ciò, chiamiamola così, la chiamiamo utenza, anche se non è un bel termine per definire insomma i beneficiari dei servizi, ma come reagisce a questi tagli continui, a questo svilimento della qualità del servizio stesso? L'utenza come reagisce, eh sì, dici? Eh sì. Pronto? Sì, sì, sì, sì. Questo, no, sì. L'utenza è sempre più amareggiata, cioè l'utenza ogni mattina non sa che cosa gli aspetta all'interno dell'asilo nido, all'interno della scuola dell'infanzia, cioè ogni mattina arriva proprio, cioè il genitore arriva ansioso perché non sa, cioè non c'ha quella rassicurazione, e poi calcolando che proprio per l'elevazione dei costi e proprio perché ci sono delle fasce in cui paghi di meno, arrivano tutti di corsa, cioè è diventato veramente come se ci fosse, sai, come se stai in una stazione e sono malcontenti, cioè, ma di fatto hanno ragione, non possiamo dire nient'altro, cioè hanno perfettamente ragione, si sta perdendo proprio di vista quello che è l'obiettivo principale, quello del benessere del bambino e delle famiglie che affidano questo bambino. Va bene, va bene. E quindi, insomma, come si può notare, insomma, procedendo in questa discussione settore per settore, ci rendiamo conto, insomma, di quanto siano disastrate le condizioni dei servizi primari. Quello dell'asilo nido certamente lo è, unito al fatto che poi non prevede alcun sostegno diretto da parte dello Stato e degli enti locali, insomma, ecco, questo completa il quadro. Antonietta, noi ti ringraziamo. Vi ringrazio io a voi, è stato un piacere. Ciao, buon lavoro. Ciao, ciao, ciao. Allora, Radio Onda Rossa, sono le 12:38, proseguiamo questo discorso relativo appunto ai servizi sociali. Stiamo mantenendo tra l'altro un profilo, diciamo, strettamente concentrato negli ultimi interventi sulla nostra città, e un altro settore che è un, se vogliamo, può essere considerato anche un po' l'emblema di questo discorso di dismissione del pubblico, è quello dei servizi sociali alla persona, dei servizi alle persone non autosufficienti. Siamo con Massimo in collegamento telefonico. Ciao Massimo, io inizierei, ciao, insomma, da alcune parole che riporta il documento che abbiamo preso all'inizio di questo redazionale, cioè questa nota del Ministero del Lavoro alle politiche sociali fatta nel 2010 sullo stato, appunto, dello stato sociale in Italia. Si dice, rispetto ai servizi alla persona, trasversalmente a questa impostazione, ogni elevamento ulteriore dell'assistenza dovrebbe passare da un accresciuto ruolo del terzo settore in chiave sussidiaria e del welfare negoziale integrativo e da una intensificazione, grazie ai risparmi da razionalizzazione, del sostegno ai familiari che si occupano di disabili a livello domiciliare. Ecco, in questo periodo, in questa frase, diciamo, si condensa tutto un concetto che purtroppo negli ultimi 20 anni si è fatto strada, e cioè quello praticamente di ridurre l'assistenza ai disabili, alle persone svantaggiate, a diciamo una forma di relazione tutta interna, diciamo, al quadro familiare, di fatto rendendo un welfare che dovrebbe essere garantito a tutti vicino a quella sorta di welfare informale, no? In cui, appunto, come facevamo l'esempio per gli asili nido, decadono totalmente le qualità del servizio e al contrario invece si rafforzano, come dire, gli elementi di mero assistenzialismo di questi servizi. Il settore dei servizi sociali, per l'appunto, ha fatto da battistrada, Massimo, per questo discorso, già dal principio, essendo poi soprattutto a Roma, essendo nato come servizio esternalizzato, no? Sì, ma dunque là, in quelle frasi c'è, al di là dell'apparente tipico linguaggio, no, burocratese, c'è però così questa parola, questo termine che aleggia, diciamo, imponente, che è quello della privatizzazione, in realtà, poi, perché è già diciamo in una fase avanzata, se non già realizzata, però in una fase avanzata di quasi di convincimento. E quello che dicevi tu è più che pertinente, perché per un verso, dal punto di vista proprio, io direi, storico-sociologico, i servizi sociali sono stati un po' una sorta di laboratorio di tutto questo, no? Perché già da diversi anni questo ridurre via via progressivamente e drasticamente i fondi per i servizi alla persona si è affiancato poi ad una, appunto, come rilevavi tu e come faceva notare il ministro, quello di affidare, di lasciare un po' all'iniziativa personale, no? Quanto le famiglie possano riuscire a fare questo. Allora, diciamo, già vengono fuori gli aspetti. Innanzitutto un concetto di famiglia che è tutto da discutere, no? Perché è evidente che soprattutto in una situazione, in realtà, spesso di estremo disagio proprio dal punto di vista di quello che la persona in quel momento sta passando, ci si aggiungono poi delle situazioni familiari molto, molto complicate per problemi economici, per problemi di sussistenza varia. Dall'altro si cerca di creare un concetto di servizi sociali, un concetto di assistenza che viene mascherato come innovativo, mentre invece non è appunto altro che dare possibilità a chi ha la possibilità economica di garantirsi l'assistenza, mentre per il resto deve un po', diciamo, accontentarsi di quello che il pubblico riesce a derogare, perché poi in definitiva è questo, cioè quello che succede per la scuola, quello che succede per la mobilità, quello che succede per la sanità, in realtà il concetto è questo, ossia che tutto quello che è pubblico va male, oltre che va male, deve andare male, non è che va male così per spirito divino, va male perché deve andare male, perché su questo tipo di servizi essenziali, prioritari in una qualsiasi società che voglia dirsi democratica e civile, deve essere invece affidata al privato. Io, senza poi magari fare tanti giri di parole, direi che ci sono i numeri a sostegno di questo, perché negli ultimi 5 anni, dal 2008, la mannaia dei tagli si è abbattuta impietosa, cioè stiamo parlando di una spesa che è tagliata del 78, quasi 79%, quindi questo significa che dei servizi ritenuti essenziali, ritenuti prioritari, stanno via via scomparendo nella loro veste pubblica per affidarsi invece ad una gestione privata. Allora, questo, diciamo, ha, se non due, una triplice lettura, che è quella, prima di tutto, cioè quella prioritaria dell'assistenza alla persona, che va ovviamente va scomparendo anche dal punto di vista della qualità, cioè manca un'analisi seria del bisogno, una mappa territoriale di come questo bisogno deve essere gestito e via discorrendo. L'altra riguarda come ci si lavora all'interno dei servizi sociali, e questo significa che molto spesso le condizioni prima di tutto economiche e poi formative di operatori e operatrici sociali, diciamo, mancano di un sostegno appunto tecnico, formativo, che possa appunto portare, che possa dare un valore a questo tipo di assistenza. L'altro aspetto è quello proprio della cosiddetta utenza. Prima si diceva di un termine un po' osceno. Sì, è vero, però lo prendiamo un po' al netto di tutte le considerazioni che si possono fare sulla parola utenza e utente. Sono le persone che usufruiscono di servizi pubblici, no? E questo naturalmente sta avvenendo sempre meno. È in ultima analisi poi quasi una questione basilare di classe, no? Cioè le persone, le classi che possono permettersi l'assistenza potranno farlo, tutto il resto devono affidarsi a quel poco di qualità che può offrire il pubblico. Dunque, allora, tu hai fatto riferimento anche a una spesa sociale complessiva che è andata sempre più in diminuzione. Io do, soprattutto a vantaggio di chi ci ascolta, alcuni dati sul piano nazionale. Il Fondo delle Politiche Sociali è passato da 435 milioni nel 2004 ai 44 milioni, che sarà la spesa prevista nel 2013, quindi pensate di quanto, insomma, è decresciuto. Il Fondo per la Famiglia è passato da 346 milioni a 185, il Fondo per l'Inclusione Sociale degli Immigrati è sparito, così come azzerato il Fondo per Interventi Straordinari nei Servizi Socio-Educativi e per l'Infanzia. Questo il piano nazionale. Sul piano cittadino invece, Massimo, magari qui tu potrai darci meglio una mano a capire la situazione, perché nel corso degli anni si è assistito anche a una chiusura di una serie di servizi. Chiudono le case di riposo per anziani, chiudono i centri diurni, è questo quello che sta succedendo a Roma? Sì, quello che sta succedendo a Roma è esattamente questo. Le cifre, come dicevo prima, sono evidenti. Parliamo di una spesa tagliata del 78, quasi 79%, il che significa che se nel 2008 c'erano a disposizione 2.500 milioni, adesso ce ne sono 538. Quindi questo significa che nel corso di questi anni alcuni servizi stanno scomparendo, alcuni sono in via di estinzione. Aperta parentesi, il servizio AEC, ossia quello degli assistenti educatori culturali a scuola di persone con disabilità, siamo al momento ad un'erogazione che è quasi un terzo, un quarto di quello che dovrebbe essere erogato. Quindi, cioè, siamo in una situazione già emergenziale. Non stiamo parlando di un qualcosa, di una critica ideologica, ossia di come dovrebbero essere gestiti i servizi. C'è anche quello, perché questa concezione figlia, conseguenza dei dettami della grande finanza internazionale, non è così distante dalle nostre esigenze. Questo che a volte si fa fatica a capire, no? Cioè, quello che succede nella mobilità, quello che succede nella scuola, quello che succede nella sanità, quello che succede nei servizi sociali, quando si parla di tagli, si parla di interventi strutturali economici su quel tipo di servizi, significa che i nostri diritti vengono sempre meno, no? Prima appunto si parlava giustamente di come tutto questo può essere raccolto e racchiuso nel bene comune. I servizi sociali, la scuola sono come l'acqua, sono beni comuni da cui non si dovrebbe, non si può e non si può trarre profitto, tanto più che le politiche, le ricette neoliberiste che invece andavano verso questa direzione hanno dimostrato esattamente il contrario. E cosa forse ancora più grave, che vale sempre la pena ricordarlo, che a tutto questo non ha contribuito solo la giunta Alemanno da 3-4 anni a questa parte, ma è una china, una deriva che è già in atto, in movimento dalle giunte precedenti. Questo significa che comunque su questi argomenti non esistono amministrazioni amiche, no? Questo bisogna averlo ben chiaro, perché su questo tipo di politiche, su questo tipo di interventi economici si fanno sulla pelle delle persone che vivono la condizione di disagio, ma sulle persone, anche sui lavoratori e operatrici. Io vorrei ricordare che nell'ambito di quel movimento che è nato appunto a Roma da qualche tempo, Roma Bene Comune, con cui si era concordato un tavolo di trattativa con, nel nostro caso specifico, con l'assessorato alle politiche sociali, è stato puntualmente disatteso. Quindi anche questo preteso coinvolgimento dei parti sociali, di attori sociali che contribuiscono a creare questa nuova idea di servizi sociali, dico questo perché proprio in questi giorni sta partendo la sperimentazione del piano regolatore sociale, e quindi viene sventolata questa presunta partecipazione. Non è così, perché gli appuntamenti concordati dopo giornate, dopo mesi anche di lotta, vengono puntualmente disattesi. Quindi effettivamente, come si ricordava prima, la situazione è disastrosa, anche perché si deve rispondere a dei diktat economici che provengono da un determinato lato, e a quelli si deve rispondere. Noi dobbiamo fermare in tutti i modi questa deriva. La giornata del 15 ottobre serve anche a questo, e serve anche mettere in collegamento, serve anche mettere, unire le lotte che anche se su specifiche vertenze guardano tutte allo stesso obiettivo, ossia quello di rendere i servizi sociali in questo caso, ma tutte le questioni che riguardano la cittadinanza, quindi tutti i beni comuni, appartengono a tutte le persone, e su quello non ci si può fare profitto. Eh sì, anche perché insomma siamo arrivati a un punto tale per cui quelli che dovrebbero essere servizi sociali garantiti, universalmente impostati, e soprattutto, almeno quelli soprattutto poi riferiti appunto a condizioni di disagio particolari, dovrebbero garantire forme di inclusione, insomma, si trasformano esattamente nel loro contrario, perché poi se andiamo ben a vedere ci sono alcuni centri per anziani, ad esempio, che sono dei veri e propri ghetti sociali. Quindi davvero, insomma, si trasformano nell'opposto rispetto a quanto dovrebbero invece essere e garantire. Dobbiamo però dire, Massimo, e con questo anche con te andiamo a concludere, che a perderci nel taglio dei servizi che viene fatto centralmente anche localmente non sono però, diciamo, gli enti che gestiscono tutto questo ambaradam, e anzi il meccanismo è quello per cui comunque si cede a qualsiasi tipo di ricatto da parte della stazione appaltante, nel senso che alla fine gli appalti vengono presi al di là dei costi, no? Perché tanto poi alla fine le cooperative o gli enti del privato sociale scaricano tutto, comprimendo il costo del lavoro oppure quelle forme appunto di salario indiretto, le malattie, le ferie, eccetera, e quindi i loro guadagni rimangono tali, i servizi peggiorano e peggiorano le condizioni di chi lavora. Questo è bene sempre ricordarlo, perché sennò sembra che è un gioco, diciamo, in cui ci perdono anche le imprese. Non è così, diciamolo in modo chiaro. Sì, guarda, hai puntualmente anticipato la chiusura, quindi forse il punto più importante è che in tutto questo appunto bisogna tenere bene in mente che hanno contribuito non tutti i soggetti che fanno parte di questo settore, anche questo bisogna sottolinearlo, però è un dato di fatto inoppugnabile che la trasformazione quasi genetica di molte delle cooperative che lavorano, operano nell'ambito del terzo settore ha causato ed è causa di precarietà, cioè all'interno di moltissime cooperative ci sono situazioni di precarietà che sono equivalenti in tutto e per tutto a quello di una qualsiasi altra azienda profit. E c'è anche un problema di natura politica, ossia che per molte le centrali cooperative sono degli enti dove le parti che dovrebbero essere contrastanti siedono dalla stessa parte del tavolo. Questo vale per le cooperative e vale per i sindacati concertativi che fino adesso hanno partorito dei contratti, hanno generato dei contratti capestro, delle riforme oscene e quindi sono state in molti casi essi stessi causa di tutto questo. Questo bisogna, come dicevi giustamente tu, tenerlo sempre presente, lo facciamo, bisogna un lavoro che bisogna fare anche all'interno appunto degli enti, all'interno delle cooperative, averlo presente come diciamo come categoria di lavoro, perché molto spesso su questo aspetto gioca quella forma un po' così come se fosse una questione di volontariato, no? Come se gli accordi al ribasso in questo settore si possano fare, come se effettivamente le persone vadano a lavorare perché spinte da una missione divina. No, questo non è così. Dobbiamo anche cercare di fermare questi gli accordi a ribasso, dobbiamo dare forza anche alla nostra capacità contrattuale e dire a chiare lettere che alcuni bandi, alcune cose che vengono proposte sulla pelle delle persone intese come utenti, come lavoratori e lavoratrici non devono passare. Questo è uno sforzo che bisogna fare anche per far venire fuori appunto, oltre che la questione economica contrattuale, anche quella di come si vuole che siano i servizi sociali. Noi pensiamo che diciamo il punto fermo, il punto di arrivo diciamo, debba essere l'internalizzazione dei servizi, no? Cioè ossia fermare anche, interrompere, rompere la filiera lunga che c'è dall'ente erogatore fino a chi questo servizio materialmente lo eroga, e fare in modo che sia appunto di tutta la cittadinanza, di tutte le persone e sia veramente un bene comune. Va bene Massimo, noi allora ti ringraziamo, abbiamo arricchito ulteriormente insomma il nostro quadro di riferimento passando anche per questo approfondimento sui servizi sociali alla persona, quindi alle persone svantaggiate, i servizi domiciliari, gli AEC e insomma abbiamo puntualizzato una serie di cose, speriamo che siano d'aiuto a calibrare meglio anche l'intervento prossimo venturo anche dopo il 15 di ottobre, certo, perché poi la base certo. Insomma per ripartire è proprio sì. Questa, cioè cercare di trovare insomma non soltanto a partire dai grandi slogan ma anche insomma di come poi articolarli questi passaggi insomma giorno per giorno. Grazie Massimo e ti salutiamo. Grazie a voi, un saluto a tutti e a tutti. Io non mi arrendo, mi avrete soltanto con un colpo alle spalle. Io non dimentico e non mi arrendo. Io non mi arrendo, è nell'indifferenza che un uomo vero muore davvero. Quanto è grande il cuore di chi in sano gli va, forse l'Africa intera lots of time on my own. I don't want to cause any serious damage. I want to make sure that I can manage, because I'm not really in your head. I'm not really in your head. Prendiamo la linea, sono da poco passate le 13. Intanto avvisiamo ascoltatori e ascoltatrici che il giornale radio non andrà in onda quest'oggi. Abbiamo avuto un po' di problemi tecnici con le linee web che hanno creato un po' di difficoltà da questo punto di vista, e quindi ci concediamo ancora, diciamo, un piccolo spazio di approfondimento per andare a toccare un altro problema che in realtà è vastissimo. Siamo passati via via per questioni chiave, soprattutto in ambito dei servizi cittadini, e adesso ritorniamo a bomba, diciamo, su questioni un po' su questioni nazionali. Parliamo di pensioni, lo facciamo insomma con un nostro compagno, con Ettore, che se ne occupa da tempo anche per lavoro e quindi ha una certa esperienza su questo campo. Ettore, io partirei proprio in virtù del discorso che abbiamo fatto e con cui abbiamo iniziato, con anche qui cominciamo con lo smontare insomma alcuni luoghi comuni, a partire dal fatto che le pensioni sono da sempre sotto attacco e ogni qualvolta c'è bisogno di stringere la cinghia e di imporre sacrifici non si fa altro che prendere le pensioni insomma a riferimento. È assurdo il fatto che queste siano considerate, già è assurdo il fatto che siano considerate spesa pubblica statale, visto che sono dei soldi insomma sudati dai lavoratori, si tratta di salario, quindi già è a monte diciamo la presa per i fondelli. Ma questa è una mistificazione che dura da tempo e attraversa tutti gli schieramenti politici e tutti i mezzi di comunicazione, che sanno perfettamente i lavoratori versano il 33% del loro reddito, cioè mediamente un lavoratore cumula nel corso della sua vita tra le 350 e 500 mila euro di capitale, no? Questi sono i soldi, poi gli restituiscono una pensione. Infatti questi enti hanno avuto grandi e grossi utili che l'hanno investito in titoli di Stato e in patrimonio immobiliare, che a sua volta lo Stato l'ha prelevato.